Laggiù tra i palmetti di bambù vi è una piccola tribù. La regina è Medimè, Medimito, il grande re, loro erede un scimpanzé. Dei tamburi ed altri suon somiglianti a xilofon, la germoglian la cantò. Lui creò il charleston, lei la rompe il botton e or la nuova rumba so. Questa rumba alquanto strana, della danza la sovrana. La ballò lo scimpanzé, Medimito e Medimè, sulle bucce di banana. Scivolando sino al mare, cominciò a navigare. Per il mondo se ne andò, un successo diventò ed ognuno l'imitò. È la danza preferita, che risale dalla vita, e a gridare tutti in vita, su balliamo la rumba so. Giunse in Russia nel Tirolo, nei deserti ed ora al polo. E sui mesi coi lappon, poche dorsi matacchion, tutti ballan rumba so. È la danza preferita, che risale dalla vita, e a gridare tutti in vita, so balliamo la rumba so. Giunsi in Russia nel Tirolo, nei deserti ed ora al polo, e sui mesi coi lappon, poche dorsi matacchion, tutti ballano rumba so. Oh,